Bene, amici di Runtime, approfitto dello sfumare della chitarra di Brian May per fare un brevissimo soundcheck, perché sono solo come un cane oggi. Oggi sarà una puntata particolare, io approfitto per salutare chi c'è già in chat, in questo momento Zio Mischi e Rizza. Ditemi se mi sentite, per favore, ditemi come mi sentite. Ci siete? Di suspense invisibile. Grazie Dio, allora approfitto, passo al secondo microfono e ti faccio la stessa domanda. Resta lì. Zio, adesso come mi senti? Forse addirittura meglio, vero? O forse troppo forte? Era troppo forte? Bene, allora ditemi se adesso va un po' meglio. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Guarda che era matto. Ciao. Ammiravo la sigla. L'ammiravo. Cioè, sì, io la sigla la ammiro. Come la prima volta. Cioè, senti che più la senti e più ti piace. Io penso che in 15 o 20 anni diventerà una hit imprescindibile. Ma infatti, quello che non abbiamo mai ascoltato. Il nostro amico Carlo ci aveva preparato degli esseri bellissimi. Quale Carlo? Abbiamo tanti Carli. Carlo. Il nostro Carlo. Ok, va bene. Solo che noi abbiamo deciso di non usarli perché non potevamo lasciare. Sono troppo belli. Sono troppo belli per diciamo per essere messi in una trasmissione che ha necessità di assets ancora più belli. Ancora che oltre. Sono quelli che usiamo adesso. Esatto, sono degli assets. Perché sono compagnia fino a quando ci siamo. Torniamo dopo una settimana di nuove. Gli acciacchi non ci hanno permesso di andare in diretta, perché cioè l'unico sano ero io e pensate gli altri come stavano. Esatto, infatti, guarda, l'unico sano avevo notizia pronta, ok, sì, no, ma io quella già la conosco, in realtà l'avevo proposta l'anno scorso solare, però vabbè, ma insomma, però adesso tu hai un compito, tu sai, io sono arrivato da poco. Quindi le onore di casa in questo momento, no, quelle le onore di casa noi abbiamo, siamo, come non c'è, c'è il signor Pizzi, ma abbiamo dovuto fare diciamo una piccola sostituzione, abbiamo dovuto cambiargli un po' la voce un po' perché non stava tanto. Come sta Pizzi, come sta? Mi sembra bene, ragazzi, tutto bene. Questo è capito. No, vabbè, allora no, noi abbiamo proprio per celebrare questo periodo di malanni il nostro paziente zero, che è il nostro invece ascoltatore zero, cioè quello che disgraziatamente ci ha ascoltato per primi e non gli è più passata. Purtroppo. No, esatto, e noi ci chiediamo perché. E me lo chiedo anch'io, guarda. Sì. Me lo chiedo anch'io, cioè io a distanza ormai di anni, ma chi me l'ha fatto fare? Ma stavo tanto bene, no. Invece no, non è stato possibile. Accendesti quel podcast che era archeologia qualcosa? No, era di tutto un podcast. Addirittura, ragazzi, addirittura. No, ma la domanda è oggi, no? Ma oggi, no? Proprio qui, in diretta dagli studi di Lantai, ma ma me lo chiedo anch'io, cioè io sono qui per di passaggio, per cavoli miei. Ma lui è venuto apposta, diciamo, cioè, in realtà doveva fare altre cose, ma quelle altre cose le ha messe perché dobbiamo andare a GM, che cosa altro posso fare? Ah, cioè, lui si è organizzato tutta quanta, quindi grazie. Ma sei venuto con bussando di piedi? Eh sì. Io però non me ne so. Da bussate di sotto? Scusate, sto facendo intanto dei controlli perché mi dicono che esco dal microfono di Gualdi. Ma io in realtà sono ben fuori piazzato. Da questo microfono, infatti. Esci da questo microfono, esci di sono qua. Ben piazzato, sto regolando ancora un po'. E in effetti non ti sento. Quindi, io sento me se stesso. Va meglio, per favore. In particolare a Rizzardo, che me lo stava dicendo in chat, approfitto per chiedergli: Peppe, ora va meglio? Secondo me no. Perché suspense. Perché non ti sento? Cioè io sento me stesso. Ma non sento te. Niente, non ci aiuta più probabilmente. Amici in chat, ditemi un po'. Se vuoi puoi passare di qua, lo faccio niente, tutti e tre. Anche zio mi dice che il mio microfono non va, dice adesso va un po' meglio. Io aumento i guadagni più che posso. Va meglio? Adesso ti sento. Alzo il compressore no, a manetta. Adesso secondo me ci sei. Ne stiamo parlando, zio. Qua, sì, ma ci sono 15 secondi di lag, dai, insomma, un po' di tempo. Intanto salutiamo Lobby che ci raggiunge fra una mezz'oretta. Nel senso che viene qui anche lui? Sì, sì, il bus basso coi piedi. Ok, mi dicono che va meglio. Molto bene, io ho dovuto alzare i livelli. La cosa divertente è che il microfono che sto usando io in teoria è di marca, mentre invece l'altro è cinese. E l'altro è di Marco. E quello cinese, come pagato, lo ripeto, 12 euro, va meglio di quello che credo che ne costi 80. Però tutto a posto. Va bene, non ci importa. Continuiamo col topic della serata, insomma. Oh, allora, quindi che cosa sei venuto a fare qui? No? Chi te l'ha fatto fare di venire a fare? Ma lo sai che ancora non l'ho capito che sono venuto a fare io qui? Vabbè. Cioè, ma spieghiamoci avanti. No, è un sentimento condiviso, neanche noi lo sappiamo. Boh. Però c'avevamo la sedia vuota. No, no, ma io mi domando perché ci sono perché io. Non stare cioè... fuori, scusa, fuori al freddo. A me entro dentro, mi siedo, mi riposo. Busso che piedi sali. Esatto, tipo. E via dentro. Allora, dobbiamo fare subito un sondaggio. È vero che tu, da ascoltatore, probabilmente ormai conosci questi modi di dire, perché insomma, da fedele ascoltatore di OGM quale sei, sai benissimo che lo ripetiamo sempre il significato di bussare coi piedi. Però vedo dalla faccia che forse il concetto di bussare coi piedi non è poi così radicato. Allora, intanto tu di dove sei, per chi non lo dovesse sapere? Allora, io sono siciliano. E mi sembra, ero indeciso tra Trieste e Sicilia settentrionale, esatto. Sicilia orientale, per essere precisi, ma vabbè. Ne ho detta una a caso, anche perché insomma... E precisamente quindi di? Dalla provincia di Messina. E tu lo sai che c'è un tuo conterrone che ci ascolta tutte le sere, tutti i mercoledì quando andiamo in onda, che... Giuseppe Amendolì, al cognome non sarà proprio messinesissimo, però lui è messinese doc. Ah, sono contento. Bene, dice zio che posso anche abbassare un pelo, va bene, insomma. È tutto un... Ok, quindi bussare coi piedi allora, significa... Figura dell'immagine. Ok. Immagine, esatto, arriviamoci per... Sì. Ma se non puoi bussare con le mani, bussi coi piedi, perché? Perché non puoi bussare con le mani? Perché ho le mani impegnate. Bravo. Esatto. Bravo. Quindi perché potresti avere le mani occupate venendo qui? Non ne ho idea, cioè, ma... Niente, sta gente del sud, dico te, è calorosa, che porta un sacco di... Ospitale, perché porto le robe! Ho capito, ecco. Poi più al nord credo che qualcuno dica bussare coi gomiti. Noi che siamo ancora più pratici, ma no, bussa direttamente coi piedi, perché insomma devi portare un bel vassoione, due sacchi, due sporte di roba. Col gomito è capace che ti cade la roba. Esatto, ma al nord si sa che insomma sono un po' meno... Penso come di dire. Essere pratici, ma non lo fanno. Vabbè, io ho bussato coi piedi perché non portavo niente, ma perché io ho il sole, il mare, mani... non ho il cuore, io ho il rancore. Il rancore qui ne trovi quanto ne vuoi, allora. Anche se in questo momento Pizzi non c'è, ma è come se, cioè, noi siamo permeati di... Esatto, siamo permeati di rancore, di ottimismo, ma soprattutto di mortificazione. Permettetemi un secondo di salutare gli amici in chat che ci ascoltano fin dalla prediretta, perché abbiamo Peppe Rizzard, Ziomski che ci ha aiutato con il settaggio dei livelli, abbiamo Lobby Frontali che in realtà ci raggiunge tra una mezz'ora. È appena arrivato Davide Gatti, che saluto, e poi un saluto particolare a Stefano che, come al solito, passa, ci saluta e poi ci ricorda che ci ascolta in difterite. Tu ci ascolti mai in difterite? Ogni tanto. Vedi? Ma tanta difterita. C'è qualche notizia sulla difterite? Perché ogni tanto è tanta e veramente non se ne può fare a meno della difterite proprio. Se uno la mattina non si alza e dice io oggi difterite. C'è qualche aneddoto? Perché la mia radio è difterite, diceva il claim. Dai, raccontaci qualcosa. No, perché innanzitutto che lavoro fai? Esatto. Allora, io intanto sono un infermiere. Che cosa dici di fare? Poi allora, io dico di fare l'infermiere, esatto, poi però. Per carità, poi ognuno fa quello che cavolo vuole, ma sai come uno dice, ma che fai? Faccio l'infermiere nella vita. Ma chi te lo fa fare? Guarda, me lo chiedo pure io certe volte. Guarda, io certe volte mi alzo e mi dico, ma io veramente devo andare a fare l'infermiere? Ma con tutti i lavori che c'erano, giusto l'infermiere dovevo andare a fare. E niente, comunque. È un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur farlo. Sporco, guarda, non hai idea di quanto sia sporco. Comunque, è un lavoro che, appunto, come dici tu, qualcuno lo deve pur fare. Meno male che qualcuno lo fa. Il turno viene e lo fa l'infermiere. Perché soltanto un fesso può fare. Faccio io l'infermiere. Ma ci penso io. Oddio, Gualdi non c'è. Per esempio, Gualdi non ce lo vedo. No, ma io posso fare il cavolo. Tu fai il paziente. Quello gli viene bene, abbiamo delle già fatto. Degli esempi. L'hai già fatto il paziente? Sì. Fatto in quattro occasioni differenti. In quattro? Ma poi gli viene una quinta. No. Ecco, per esempio, noi ti potremmo chiedere una consulenza professionale. Marco c'ha un problema. E fosse solo quello. No, allora, quella psichiatrica Lobby non ce l'ha risolta. Proviamo quella invece, quella diciamo un pochino più fisica come patologia, quella meno... Sei molto fisico, sei patologicamente fisico. Il Gualdi qui presente, periodicamente viene ricoverato in ospedale con infiammazione all'appendice che sembra un semaforo rosso. Normalmente uno si aspetta che aprono, tolgono, non ci pensano più. Lui è l'unico caso in cui 4 volte lo riempiono di flebo e lo rimandano a casa. Perché gli fai schifo, scusa. Esatto, cioè, 3 volte e ho scoperto di uno che l'ha fatto per 7 volte. Voglio battere quel record. Mamma mia, ti piace così tanto la minestrina all'ospedale? Voglio battere il record. È una persona materialista, non gli toccate l'appendice. No, è roba mia. Ma te la fai mettere in un vasettino e te la porti? Ma te la porti a casa, infatti. Voglio portare a casa, voglio che sia dentro di me. Dentro di te. L'alien in Gualdi non se ne vuole andare. Il simbionte, perché lui lo vive un po' come un simbionte, la sua appendice, capito? In realtà. Ma mettila sul comodino la mattina, ti alzi, bene, ma so che si riprende, cioè, buttarla via così per un qualche piccolo fastidio. Cioè, è veramente da cane. È parte di te, ci sei nato. Se la abbandoni, il cane sei tu. Io sono sempre con tutto. Allora, qui è un messaggio per il sociale, esatto. Non abbandonate le vostre appendici, perché ci nascete con queste appendici, esatto. Perché le dovete abbandonare? Non solo dei giocattoli che poi vi stufate, al minimo accenno che vi rompono un po' le palle, mi sta sono appendici di voi stessi. Le butto, no, sono parte di voi stessi, non vanno buttate via. Esatto, sono d'accordo. Scusa, però se è vero quello che ci dice il progresso, cioè che la razza umana nasce con la coda, no? E poi a un certo punto l'abbiamo abbandonata. Perché non era un appendice, cioè era un altro tipo di appendice, puoi mettere. Dici avere che... un qualcosa che ti devi trascinare dietro piuttosto che un qualcosa che porti dentro di te. La coda non è caduta, semplicemente si è ritratta, quindi è diventata anche lì c'è l'appendice, non si vede, ma c'è. E che fai? Ti fai togliere la coda adesso? Ma tu lo sai che c'è la leggenda metropolitana per cui chi nasce con la coda, perché c'è chi nasce, dice che abbia una forza gigantesca. Ovviamente sono tutte cazzate, però ecco, pensa se fosse tipo Goku di Dragon Ball, no? Sarebbe bellissimo, tu nasci con la coda, se diventi potentissimo. La sapevi sta leggenda? No, perché questa cosa di nascere con la coda mi lascia un attimo. Però vedi, se vedi su Google, coda umana. Coda umana. No, ci sono queste cose che hanno la coda coccige che sei poi. Sì, praticamente. Ah, sì. Ok, una leggera protuberanza, diciamo. No, chiamiamola protuberanza. Poi, vedi. Vedete, c'è la leggenda metropolitana per cui chi nasce con questa protuberanza abbia una forza. Chi nasce con la camicia invece è uno che. Ragazzi, ci dice Davide Gatti. No, che perché nel frattempo... tu senza camicia io non ti vorrei tanto vedere. Certo. Nel frattempo qui è diventato Medicina 33. Ci dice Davide Gatti: io ho tolto l'appendice e le tonsille quando ero ragazzino. Mai avuto problemi di appendiciti e soprattutto mai mal di gola. E non ne sento la mancanza. In realtà l'appendice l'ho tolto anch'io a 6 anni. E vabbè, pace, le mie tonsille ce le ho, ne sono fiero, anche se alle volte si infiammano, ma insomma non vedo perché dovrei separarmene. Io invece ho tolto le tonsille da bambino e niente, io ora le rivoglio, ecco, mi state facendo cambiare idea, cioè mi mancano le mie tonsille, ragazzi. Alla faccia di chi dice che non servono, ecco, le tonsille, no, una volta c'era questo eccesso di interventismo, togliamo. Sì, assolutamente. E già che ci siamo, anche le adenoidi, perché scusa. Ma sì, togliamo tutto. Ma la milza? A che ci serve? La milza? La lasciamo lì? La milza no. No, la milza dopo, perché possiamo prima prendere un altro rimborso. No, esatto. Perché la regione la rimborsa separatamente, scusa, la togliamo in un'altra occasione. Tanto faccio quello che c'è sopra. Sì, certo, segniamo, l'anno prossimo milza. Io penso che se noi togliamo tutto quello che non serve diventiamo immortali, cioè veramente tutta sta roba che si infiamma, si ammala, si fa, ecco, togliamocela. Ma sì, togliamoci anche il cervello che tanto non ci serve. Tutto. Tipo Angelina Jolie. Esatto, che, esatto. Cioè, vabbè. Evitiamo di essere troppo cinici, però un pezzo alla volta fondamentalmente si è fatta asportare qualunque cosa potenzialmente a rischio potesse tumore. Potesse sviluppare un tumore invece. Io non dico che, perché ci sotterrerà tutti. Potenzialmente ci potrebbero essere dei tumori anche al cervello, quindi si è fatto togliere. Ma quello secondo me non ce l'aveva di prima. Ma infatti, cioè lì non c'è tutto sto rischio di un tumore al cervello. No, perché? Chi può dirlo, Marco? Cioè, chi nasce fortunato non ha questo problema di dover preoccuparsi del cervello. Senti, vediamo se Peppe Rizzard ha indovinato l'analisi su Nino. Ci dice: il paziente zero mi sa che è della provincia di Messina, ma sud orientale, tra Taormina e dintorni. Esatto, assolutamente vero. Sono di Santa Teresa di Riva, per essere precisi. Quindi, Peppe, hai vinto un uno stocazzo che incasserai quando ci vediamo. Ti offriamo un caffè. E quindi tutti insieme la coda. Stocazzo. Mamma mia, che scena brutta, ragazzi, meno male, ecco, che siamo in radio. Ma questa dovremmo farla vedere radio. Anche gli altri, però, ecco, non sì. C'è un modo per farla vedere in chat, sta roba. Certo che c'è un modo, però bisogna condividere passando attraverso Telegram, in modo che io poi possa mettere sulla chat di Spreaker questo contributo visivo che il Gualdi ha appena... Cioè, pare un pene di dietro, praticamente. Allora, ragazzi, un pene di dietro detta così è una frase bruttissima. Io... Ma è una foto bruttissima, cioè non è che... Non è su quale chat, scusami? Mettila su GM, no, su GM, perché poi la condivido su... La condivido direttamente io. Ci sto. Non devi condividere tutto. Protuberanze su GM. Strane. Però vediamo se c'è... No, questa è bellissima. Mandate a letto i bambini, perché sto per condividere nella chat qualcosa di veramente brutto. Vabbè, sono brutti. Anche sono i bambini non è che poi sono così belli, voglio dire. Soprattutto se nascono con la cosa. Però ci sono delle situazioni in cui. Ecco qua. C'era un film di fantascienza. Splice. Esatto. Con Adrian Brody, sì. Questo c'è le tette giganti, ma non credo che fosse questo. Gualdi, smetti, esci da YouPorn, per favore. No, perché non era YouPorn, quella era una cosa. Era Pornhub. No, ci credo solo coda umana ed è uscito fuori una tette enorme. Ragazzi, ma pure tu spiego. Pure tu scrivi coda umana e dai su. Ecco, però vedi questa che ti ho appena postato, che c'ha quasi del sexy. Io continuo sì, tipo, vieni, tirami la coda. Tirami la coda. Yam yam. Quindi, vedi, caro mio Walter, hai scoperto una cosa nuova: che gli esseri umani a volte hanno la coda. Colpi di coda. Ma che alcuni esseri umani avessero un altro tipo di coda, però non penso. Cioè, oddio, fino a ieri pensavo fosse una gamba quella. Dipende, se arriva a terra e fa il treppiedi, sì, altrimenti è una codina. No, vabbè, comunque dai, poi torniamo un attimo. Allora, tu quindi fondamentalmente ogni giorno hai a che fare con una quotidianità, come dire, varia umanità. Sì, assolutamente. C'ho a variata umanità, diciamo. È un ventaglio proprio di gente di tutti i tipi, praticamente. Allora, che reparto stai? Allora, intanto non lavoro in nessun reparto, io lavoro in una RSA per anziani. Ora, l'acronimo RSA per me è qualcosa di sindacale, quindi... Repubblica Socialista Asiatica, proprio una cosa futuribile. Che magari è... Sì, perché sai, è uno stato a parte, è una repubblica a parte proprio. Significa residenza sanitaria assistenziale. Sostanzialmente è un posto dove tu vai a portare i tuoi anziani, sostanzialmente. Un ospizio, si sarebbe detto una volta, una casa di riposo. Una casa di riposo. Io ci ho fatto il servizio civile, pensa. Ah, bello, sono belle. Te l'ho fatto uscire? Sì. No, strano. No, oggettivamente è stato un anno veramente sono emozionante belle per, tante, sono per delle tanti belle motivi. Esperienze. Allora, io però. Tra l'altro, oggi è la giornata nazionale o mondiale dei nonni. Per cui, perché. Ciao, casca nonni. A pennello. Ma era ieri. Ce l'abbiamo dei caffè. Nonni in chat? È come se ce li avessimo, nel senso che ormai siamo quasi noi, esatto. No, ma ci sono. Cioè, ieri era quella del caffè. Io ho sentito che c'era la giornata nazionale del caffè. Non lo sapevo. Però penso fosse io. Vabbè, noi allora oggi partiamo. Insomma, parliamo dei nonni. Celebriamo un po' i nonni. Quindi voglio dire, c'è chi ne ha uno, ne ha due, tre, quattro. Tu ne hai qualcuno in più. Io a voglia, ne ho una sessantina. E la cosa bella della mia, praticamente del mio lavoro, qual è? Soprattutto della mia struttura, è che sostanzialmente la mia è una via di mezzo tra una, appunto, una casa di riposo e una comunità. Perché devi sapere che da me arrivano molti pazienti mandati dagli assistenti sociali, quindi ti arrivano tutta una serie di casi sociali, uno peggio dell'altro, e quindi c'hai praticamente un ventaglio di umanità, cioè veramente tipo nonnorina, perché... queste cose qui ti mandano cosa? No? Tipo nonnorina, sì, precisi, guarda. E quindi c'hai praticamente un ventaglio di personalità, ma anche direi anche di umanità, se vogliamo parlare, perché non è soltanto una questione di persone eccentriche, di persone che magari sono particolarmente, diciamo, divertenti / esasperanti o altro. Proprio tu ci vedi veramente l'umanità che non vedi, cioè quella che a un certo punto ha bisogno veramente di un'assistenza, ha bisogno di un posto che non riesce a trovare magari in, diciamo, di una casa che non, magari non riesce a trovare in altri luoghi, oppure che per tutta una serie di motivi sociali non riescono un attimo a, a soddisfare, e quindi arrivano da me. Che c'è qualcuno? Chi è? Non bussano coi piedi normalmente. No, ah, ho capito. No, no, chiedo, non bussano coi piedi. Beh, no, assolutamente anche no. Perché insomma c'è un'indigenza di fondo, lo vedo complicato, insomma. E niente, quindi praticamente c'è un po' di tutto. C'è dal paziente senza casa, dal barbone, dallo psichiatrico. Ma sono casi di lungo degenza o sono, diciamo, come dire, allora, da me, transitori? Da me la maggior parte sono tutti lungo degenti, cioè vengono lì per stare. E poi c'è qualcuno magari di transitorio, cioè ne ho una ad esempio che era gli arresti domiciliari, però non c'è a caso, ce l'abbiamo noi. Eh sì, immagino, insomma. Ma questo anche legato all'età o anche, diciamo è comunque una condizione geriatrica di base? Non necessariamente, c'ho anche pazienti giovani ho avuto io. Ah, che no, perché mi domandavo quello agli arresti domiciliari quanti anni potesse avere indicativamente. Lei è una cinquantina d'anni. Cioè, quindi giovane. Sì, vabbè, magari sì, rispetto agli altri miei pazienti sì, assolutamente giovane. E niente, praticamente... Che noi ci avviciniamo agli Anta, quindi giovanissimi. Sì, proprio, cioè, ci avviciniamo agli Anta, certo. Agli altri Anta, ai Rianta, ok, sì. Tanta, E niente, quindi praticamente è divertente, faticoso, esasperante, ma dà tante soddisfazioni. Gualdi sta pensando, non so, lo vedo un po' perplesso. No, io lo vedo più come, cioè, sta facendo dei programmi per il futuro. Esatto, capito? Sì. Vuoi venire? Tu devi sapere che Gualdi è come se non avesse casa. Perché non è come, perché gliel'hanno sostanzialmente gliel'hanno distrutta. Distrutta, sì, da un gruppo di incompetenti, ma vabbè. Oh, ti giuro che non ti tocco l'appendicite, te la lascio. Allora, attenzione, qui dobbiamo un attimino, come dire, recuperare il rapporto con gli ascoltatori, perché diciamo che qualcuno tendenzialmente intorno ai 50 non ha proprio gradito l'affermazione, si è sentito un po' dare del vecchio, quindi insomma non volevamo dire questo. A 50 anni si è pischelli, no? No, vediamo l'ora di arrivarci anche noi, perché noi siamo giovanissimi dentro. Sì, infatti, almeno che fuori che siamo messi fuori male. Ma quello già da 20 anni. Vabbè, ma infatti. Non è che abbiamo aspettato i 40 e i 50 per essere fradici all'esterno, insomma. Quindi, insomma, adesso c'è queste persone che... C'è qualche aneddoto particolare? Ma sai, ogni tanto c'è qualcuno che ad esempio tenta di scappare. Ecco, la fuga. La fuga è una cosa. Fuga. Devi sapere che praticamente. Perché noi abbiamo. No, adesso vi spiego il perché, insomma, la fuga è interessante. Noi abbiamo un personaggio che Pizzi conosce bene. Questa è una situazione che non faremo nomi. Che non faremo nomi, ma a cui vorrebbe fuggire. Ma tutti vorremmo fuggire da qualcosa. Ma questo particolarmente. È una condizione umana, tutti fuggiamo da qualcosa. Esatto. Prima che questa cosa non ci raggiunga. Allora, fuggi prima che ti raggiunga. Esatto. Fuggi da Fogge, no, quella è un'altra cosa. E quindi ci dici, insomma, questa. Raccontaci questa storia di fuggitivo, perché a questo punto ci stai raccontando. Sì, sai, ogni tanto qualcuno tenta di fuggire, tempo addietro mi è successo che una mia ospite, ad esempio, si è buttata dal muretto ed è caduta nel bosco. Si è buttata nel bosco e ha cominciato a correre nel bosco, tipo. Bella, scusa, dove si trova la struttura? Perché me la immagino quasi come. No, allora. Tipo Overlook Hotel. Esatto, stavo per dire esattamente quello. La struttura degli orrori, comunque. È praticamente una struttura immersa nel bosco, sostanzialmente. Un po' diciamo è diversa dalle altre strutture per anziani, sia per pazienti sia anche da un punto di vista strutturale. Devi sapere che questa era una vecchia clinica psichiatrica, una volta un vecchio manicomio, è stato riconvertito, giustamente, chi ci deve rimettere, secondo te? Rimaniamo sul tema, insomma, perché aprirci una pizzeria sembrava brutto, sul insomma. Tema si resta. Pizzeria dai quattro matti, però sarebbe stato. Dai quattro matti. Senti, ma vagamente qual è la zona? Geograficamente come lo collochiamo? Non vogliamo dire proprio. Esatto, però non diciamo un attimo qual è la struttura. Comunque in provincia di Cuneo. In provincia di Cuneo. Quindi pieno Piemonte. Esatto, ne. Piemonte Barotto. Possiamo parlare bene, insomma. No, no, no, è una bella struttura. Io amo lavorare là dentro veramente, perché vedi l'umanità, veramente vedi un pezzo di umanità che tu solitamente non vedi. È gente che per un motivo o per un altro viene nascosto, si nasconde, e invece lì li vedi i loro problemi, vedi il loro ambiente, perché poi tra di loro, essendo anche una mezza comunità, diciamo così, si viene a creare anche una sorta di famiglia. È un contesto in cui ognuno di loro c'ha i propri vizi, c'ha i propri quirk, c'ha i propri quirk. Allora, il quirk, come te lo spiego? Quark sono i tre nipoti sono i tre pazienti. E prendi i quirk, sono praticamente degli atteggiamenti un po' come dei tic, ma non sono dei veri e propri tic. Sono dei quirk. Esatto. Sono dei quirk. Come fa a sapere cos'è un quirk? Ma non Marco, ne hai tanti, solo che non sa che tu, si chiamano esempio, così. Sei un quirk che cammina, esatto. Non vorrei dirlo. Quirk 1. Esatto. Il quirk 1, esatto. E niente, praticamente ci sono questi contesti che si vengono a creare, e niente, tu lavori lì e ci stai a contatto, si vengono a creare anche dei rapporti particolari, perché io da sempre fermo restando che ci vuole una certa distanza anche per tutelare se stessi e anche loro, ovviamente. Bisogna creare un po' una barriera. Esatto, una però è anche bello perché presa dall'empatizzazione. Si viene immagino a creare anche un rapporto, come dire, confidenziale con loro, si viene. E soprattutto li conosci, poi ti raccontano le loro storie, ti raccontano un po' di tutto. Perché poi di base io penso che è insito nell'individuo in determinate condizioni, la prima cosa che cercano è la compagnia, la possibilità in qualche modo di potersi raccontare, di farsi ascoltare, il non sentirsi soli parte da quello. Ma sì, perché vedo ognuno di noi, perché già non parliamo di loro come se fossero persone assolutamente isolate dal mondo. No, assolutamente. Quindi ognuno di noi si porta dietro un carico esperienziale, un carico di anche di problemi, certo, poi c'è chi ha una situazione un po' più esasperata dell'altro, magari una condizione clinica magari un po' più, come dire, esasperata rispetto a una condizione di fisiologicità, una condizione, diciamo, di tra virgolette di normalità. E quindi è normale che poi queste esperienze sia un po' voglia di condividerle, ovviamente non le condivide con chi ti capita. Bisogna, come dire, fare attenzione a quello che è anche l'aspetto relazionale, fare attenzione a quello che è l'aspetto, diciamo, confidenziale che si viene a creare tra l'operatore che ci lavora, e l'operatore parlo di tutti, non soltanto degli infermieri, ma tutta l'equipe che lavora, diciamo, attorno a queste persone, con appunto queste persone, e interfacciarsi quindi anche con le loro storie, le loro vite. Ti piace? Insomma, no, capito una cosa? No, che è un bel lavoro. Io prima di lavorare qui lavoravo in una comunità per ragazzini, tutti ragazzini problematici, tutti ragazzini diciamo con problemi anche seri, tutti quanti con problemi di eccessi, di abusi di sostanze, di problemi comportamentali, insomma. Sono ambienti particolari, diciamo, che non si vedono spesso, e queste strutture, queste comunità sono anche inseriti in contesti spesso isolati, nel senso che comunque ci vuole una certa distanza dal centro urbano, un po' per cercare anche di far fare un percorso a queste persone, no? Che ovviamente devono, per fare un percorso devi per forza di cose, come dire, prenderlo, allontanarli dal centro, esatto, perché sennò metterlo quanto cammina da parte e trattarlo in un determinato. Poi, cioè, se prescindere, scappano, stanno subito in città, insomma, cioè avrebbero anche più voglia di uscire fuori. No, ma anche tu c'hai voglia di uscire fuori, infatti, guarda, non si può. Assolutamente. E niente. Ma le torrette con i cecchini ce le avete? No, purtroppo no. Cioè, avete però le cerbottane con le, il coso paralizzante, esatto, quelle proprio ce le danno in dotazione. Ecco, questo è un aneddoto che sicuramente i nostri ascoltatori vorranno condividere. Allora, devi sapere una cosa, uno dei momenti, diciamo, ok, più brutti, perché comunque intanto situazioni abbiamo capito che il bosco dove si trova la clinica è il Borneo, esatto, con gli indigeni che stanno proprio, la gente sull'albero che appena vede qualcuno che scappa, esatto, poi praticamente li tramortisce. E niente, di cosa stiamo parlando? Scusa. delle cerbottane avvelenate. Ah, ecco, delle cerbottane, ecco uno degli episodi, diciamo, più divertenti. Più divertenti relativamente, nel senso che comunque si sono sempre delle situazioni, non sono molto divertenti nel momento in cui succedono. Esatto, nel momento in cui succedono non sono divertenti, tanto divertenti, però ecco, sono divertenti da raccontare e poi soprattutto da ripensarci. Quando praticamente qualcuno di questi, parlo ovviamente dei ragazzi, perché vedi, gestire un'anziana è una cosa, gestire un ragazzo è un'altra cosa. Cioè, già sono complicati loro i ragazzi, perché sono brutte persone. I bambini, i ragazzi dai 18 anni, 17 anni in giù, sono brutte persone. Toccherebbe ammazzarli da piccoli, direbbe esatto, qualcuno. Esatto, perché li fanno crescere? Comunque, perché sperando che migliorino, però. Ma è una speranza vana, non c'è. Guarda un po', noi siamo, noi siamo migliorati, non mi pare. La speranza è l'ultima a morire. Il problema è che c'è speranza, invece no. Adesso ce l'abbiamo anche come ministro, speranza. La sanità, mica a caso, cioè. Ah, infatti. E niente, praticamente capitava che a un certo punto questa persona le devi sedare per un motivo o per un altro. Ma secondo te, se io vengo e ti dico, ora ti sto sedando, tu che fai? Tu scappi, perché la fuga, vedi, la fuga è una costante della vita. Tu scappi sempre da qualcosa, da una storia, dal passato, dal tizio che ti vuole fare una fiata. E quindi sei che da succede? Un sedadavo. Se magari venivi da me con un trip, ti dicevo sì, passamelo, cioè, immediatamente. Invece no, sedadavo. Ecco, vedi, questa è una cosa, non ci ho mai pensato. Ecco, potevo fare così. Cioè, però è gratis, prova. Perché non ti ho incontrato prima? Hai visto? Fai questo tentativo qua, vedi che succede. E quindi cosa succedeva? Che praticamente c'erano questi tizi, questi ragazzi che correvano nei corridoi e io dietro con la fiala praticamente a cercare di beccare questi qua. Poi il chiappone punto, di questi... Esatto, poi praticamente me li placcavano e io facevo la fiala. Tipo, sì, capisco, insomma, come Sarah Connor che scappa nel al Pescadero, insomma. Pescadero, sì, sì. Vabbè, a proposito di follia, no? C'è una follia che sta girando adesso, che stavo giusto anticipando. Questa cosa della fobia. Della fobia. Film, della siamo fobia. Andati in America. La fobia della fobia. Immaginate musichetta. Ci trasladiamo dalla periferia del nord Italia. Saltiamo negli Stati Uniti. Dove? Dove? C'è paura per l'uscita del film dedicato al Joker. Non sarà poi così brutto. Ma non è neanche un film horror. Secondo me è una commedia camuffata da thriller. Comunque, in ogni caso. Ma c'è un pagliaccio, è comico. Infatti, cioè, è come Hit. Assolutamente un pagliaccio che fa ridere, fa le battute. Ma poi non è quello di McDonald's. Esatto. Allora, a questo punto, c'è questa fobia, quello che è. Secondo la quale ci saranno, molto probabilmente, delle sparatorie e dei morti durante la proiezione dei film, perché ci danno i matti. Cioè, c'è questa follia, esatto, perché ci fu durante la proiezione dell'ultimo film della trilogia di Nolan, ci fu un tizio, mi sembra, esatto, sì. C'è un tizio che si vestì pseudo Bane e cominciò a sparare dentro il cinema. Ora il problema fondamentale d'America, era un cosplayer, ragazzi, c'è il problema. Andrò io vestito da pagliaccio, faccio scoppiare i palloncini dietro la gente e gli faccio gli infarti. Cioè. Allora, se tu però andassi in America, ti sparerebbero. Lo sappiamo, l'abbiamo capito. Allora, c'è questa fobia secondo la quale, siccome che questa versione Joker inneggia un po' alla ribellione, bla bla bla bla bla, e siccome che c'è il matto di turno che ha sparato durante l'ultima proiezione, durante una delle proiezioni dell'ultimo film di Nolan, sicuramente ci saranno i matti che andranno a sparare durante la proiezione del film di Joker. Cioè, mi sembra una cosa logica e lineare. Ma infatti, ora che in America ci siano un fottio di armi, questa è una cosa assolutamente secondaria. È sempre colpa dei film dei videogiochi e dei fumetti, non mai della circolazione. Non perché c'è un'industria, assolutamente, che... ma ci vuole anche essere l'industria. È solo un caso che ci siano tante armi. Ah, voglio sì, dire, è assolutamente una cosa. Ne stavo parlando prima, che sarebbe bello se la gente andasse in giro armata di katane. Secondo me sarebbe più perché difficile. Da fuoco? Dice, se no, proprio la vuoi rendere divertente. L'arma da fuoco è più pulita, cioè risparo da lontano e vaffanculo. Posso anche ammazzare con una smitagliata 10 persone, ma la katana è più personale, io mi devo avvicinare, mi devo sporcare le mani. Non tutti hanno il coraggio di farlo. Ma è anche bello da vedere. Cioè, tu ti immagini che sei lì per la strada, incontri un americano medio, fa, oh, minchia, una persona col colore diverso dalla mia, ed esce la katana. Esatto. Cioè, ecco. Quello si difende, esce la katana e tu ti guardi un bel incontro di katane. Scusa. Esatto. Ma porco zio. Anche con una relativa sicurezza, che non ti può arrivare il colpo di fuoco così, colpo di pistola a casaccio. Ma poi ce ne vuole per il fuoco amico. Vogliamo... Cioè, la katana amica non l'ho mai sentita. Infatti è difficile. Se proprio vogliamo unire, come dire, tradizione e modernità, facciamo la katana monofilare come in Cyberpunk. Quindi sostanzialmente un'arma dall'affilatura laser e quantomeno, insomma, però insomma, lo spettacolo ne guadagna. Vado a vedere gli arti che volano al limite. Beh, come quel qualche tempo. Ma tipo Highlander, te lo ricordi Highlander? Che combattevano così in strada tranquillamente con queste katane, praticamente facevano i snorkel, erano le spade, la Toledo Salamanca. Sì, a seconda ognuno, scintille, la... chi aveva la bastarda, chi aveva lo spadone a due mani, chi aveva la katana, a seconda delle preferenze. Le cose elettriche loro avevano praticamente collegato la batteria collegata. Sì, loro avevano un tubo che scendeva lungo tutto il braccio, rischiosissimo, e per quello che combattevano sempre soltanto con gli impermeabili addosso, non perché dovessero celare l'arma, no, perché facevano ma perché dovevano nascondere il cavo elettrico che gli permetteva di fare le scintille. Sì, vabbè, in realtà quelle scene le facevano gli stuntmen, non le facevano certo. Che stupidi, io l'avessi attaccato direttamente alla corrente elettrica di casa, cioè, perché la batteria, scusa. Sì, poi cavo elettrico tipo gli Evangeli. Evangelion. Marco, Evangelion. E che cazzo, abbiamo fatto fior di speciali, guarda, una volta i primi anni che sei un children della era appena uscito Evangelion, la fumetteria di zona, tra l'altro qui a Monterotondo, una che non c'è più, non so se tu l'hai mai vista, ai Palazzi di Genesi, quindi forse te la ricorderai, il Dragon Fear, mi sa, sì, ma facevano anche roba dei computer, mi sì penso. Anche per... io lì ci ho comprato il gioco più brutto della storia del cinematografo, Superman per il Nintendo 64. Beh, comunque fatto sta che un giorno scendono da chissà quale paesino della Sabina questi ragazzi, che vedono entrano la fumetteria come fosse l'oracolo, no? Cioè, il tempio dell'oracolo, vedono un poster perché... e io ricorderò, all'epoca avevo 18 anni, 20, non ricordo, però ricorderò questa frase a vita: Amberi, il poster d'Evangelion, e io lì ero morto. Evangelion, vabbè, da prendere a colpi di lancia di Longino. Beh, no, che poi katana. Ecco, a colpi di katana ci può anche stare, che voglio dire, allora di a colpi di Prag Knife, scusa se dobbiamo fare la citazione evangeliana, ci può stare pure che magari tu hai sempre detto evangelizzazione Evangelion, però insomma informati, se no poi fai la fine di cannarsi davvero. Intanto salutiamo Pier G che ci dice buonasera a tutti, ciao. E stavo leggendo anche una nota di Peppe Rizzard che ci fa due appunti, pensa, manco uno, due. Dottorino. La trasmissione, via. Uno, in America girano soprattutto perché glielo consente il secondo emendamento. Ne stavamo poi effettivamente prima parlando tra di noi. Il secondo emendamento dice che possono girare armati, non per forza con armi da fuoco. Poi correggetemi se sbaglio. E comunque dice la katana è sempre monofilare, anche che sia laser o meno, e questi sono tecnicismi. Beh, c'hanno un filo. Vabbè, sì, per carità, però è... la katana monofilare in Cyberpunk, il gioco di ruolo, è un oggetto specifico. Comunque, beh. Era una perculata. Una percolazio, dici? Come sì. Prese di percolazio, ragazzi, ma l'ultima uscita del presidente Lotito, mi spiace che non c'è Simone perché l'avrei dovuto trollare un pochino, perché stamattina. Sapete che il buon Simone, voglio dire, quando si tratta della Lazio ha una visione che diciamo in qualche modo... Sì, ma non tanto per Lotito, non tanto. No, per Lotito non tanto. È abbastanza oggettivo. Fatto sta che, insomma, parlando di razzismo, di tutte queste offese e questi insulti ai giocatori di colore, Lotito cerca, come dire, di stigmatizzare questi comportamenti dicendo che sarà mai, anche io mi ricordo anche ai miei tempi, quando si facevano le offese si facevano anche ai giocatori con la pelle normale bianca, perché c'è anche normale bianca, la pelle anormale, però poi la pelle normale è bianca, cioè, quindi cioè, voglio dire, ragazzi, che già quelli con la pelle anormale bianca un po' gli sputavano addosso, tipo quelli con l'ittero, quelli con l'epatite, che si cominciano ad andare sul giallino, bastavano i brufoli, queste cose qua, insomma. Lotito, ecco, tu ad esempio saresti da castigare con colpo di katana Lotito. Lotito, no, ma è per prenderlo in giro, perché... lo so, e tu che ne sai che quelli non volevano prendere in giro Evangelion, scusa? No. Dici di no? Sì, perché l'estasi era... cioè sono andati in sindrome di Stendhal quando hanno visto il poster, quindi... Ah. Vabbè. Comunque, ragazzi, insomma... in sostanza, al di là del trollare, insomma, un personaggio che non ha mai fatto proprio, diciamo, dell'etica la sua cifra umana e professionale, insomma. E torniamo invece a chi, diciamo, l'etica la vive quotidianamente. Quindi Io sono curioso poi di capire un pochino la dinamica di queste cerbottane di tranquillante. No, perché cerbottane, non cerbottane. Cerbottane, cerbottane. Io t'ho sentito che cerbottane. Allora dovrei dire la buttana, perché lui mi insegna che insomma poi l'etimo cambia andando al sud, la O diventa una U, tutta una cosa. Beh. Allora, diciamo, dire cerbottane è una cosa, dico cerbuttane è un'altra cosa. Esattamente. No, dicevo, insomma, poi, quindi sostanzialmente avete poi, siete riusciti poi a creare uno strumento più raffinato che permettesse di essere usato, no, beh, quantomeno a distanza, perché se lo devi placcare, gli devi premere lo stantuffo nel siringa con un ago bello lungo, cioè non è tanto facile. Ma quello volevo capire se vi eravate ingegnati in qualche modo. Il placcatore, dice la figura del placcatore? Sì, sì. Allora, Pier G dice: sento una voce che non conosco, cosa mi sono perso? Ti sei perso che abbiamo qui l'ascoltatore zero. L'uno, quello dove tutto è iniziato e dove tutto finirà. Poi magari. Ma io sulla responsabilità non la voglio. Scusa un attimo. Recupereremo ti consiglio di recuperare l'inizio della puntata di oggi, perché in qualche modo il cerchio si chiuderà in questo modo, in questo uruboro di conoscenza. Intorno ai nostri conti. Esatto. Niente, mi vogliono far chiudere i cerchi stasera. Si deve avere. Guarda, stai tracciando l'infinito, sappi. Insomma. Ma io perché vi devo prendere sta responsabilità? Te l'abbiamo chiesto chi t'ha fatto fa. Sei venuto qui apposta. D'altra parte, c'è un elemento nuovo rispetto alla solita routine. Noi ne approfittiamo finché possiamo. Però infatti parlaci dei placcatori. Cioè, c'è questa figura del placcatore o è una cosa? Diciamo che è una figura un po' improvvisata. Quindi gli operatori che ci sono al momento, sì, magari tutti come Dwayne Johnson, magari, sono, vero? Sono più grossi quei ragazzi, guarda. E comunque capita che comunque nel momento in cui c'è proprio la necessità, perché per evitare che si facciano del male loro stessi e che facciano del male a qualcuno, a un certo punto lo devi contenere, e quindi lo cerchi di contenere, ecco, proprio fisicamente lo devi contenere, certo senza fargli male, per carità, ci mancherebbe altro, ma sono situazioni particolari in cui se si devono contenere si prende, si placca. E beh, c'è poco. Penso sia inevitabile, insomma, in certi momenti la. Purtroppo sì. La questione è tutta fisica, anche perché se soprattutto dall'altra parte c'è, diciamo, un. Se danno di matto. Sì, esatto. Può essere il momento. Un fenomeno anche, diciamo. Al controllo di una magari anche dove ci sono altri ragazzi che potrebbero seguirli. Poi, questo sta a far matto pure noi. Il Riot magari. Un attimo, insomma, tu mi insegni. Poi a cerbottare dopo, sì, esatto. E vabbè, d'altra parte però immagino che voi abbiate i Kalashnikov nell'armadietto, cioè abbiamo le katane, secondo le katane inzuppate nel tranquillante, che non sarebbe una cosa, le katane inzuppate nel Ritalin sono molto, come dire, una volta che sei stato colpito, beh, quasi una trama da videogioco, diciamo, ci si potrebbe costruire un survival stint, come lo potremmo scherzando, dicevo ci vuole qui l'irrigatore, praticamente quello che si usa nelle campagne per dare il ramato, esatto, quello per dargli il ramato, ma anche quello per dare, che so, come si chiama, l'insetticida, bello riempito tranquillante, così uno passa, ma scusa, tu mi insegni. Oppure direttamente nel sistema antincendio, uno lo rientra per emergenza psicosi, via. Gli americani da mocche gliel'avrebbero direttamente messo nel cibo. C'è questa leggenda, no? Poi magari è tale, magari si faceva davvero. Questo anche, diciamo, in Italia si raccontava che l'esercito desse il bromuro ai militari per placare un po' gli istinti sessuali, insomma, che in quegli anni, soprattutto, diciamo, in cui o il servizio militare era più lungo oppure addirittura in guerra, poteva essere particolarmente in marina, forse mi immagino ancora meglio, insomma, sennò poi deve stare di botte il giovedì, un macello. C'è un'altra leggenda metropolitana, qui sono un po' quello che dice le leggende me le state facendo venire tutte in mente ora. Allora, che I tedeschi ai tempi della seconda guerra mondiale avevano inventato, ovviamente se è vera sta cosa non è vera, io propendo un po' più per il no, delle bombe chimiche, tipo delle, come si chiamano, diciamo un qualcosa che poi liberava nell'aria una sostanza che invece faceva l'effetto contrario. Come il bonobo, orgione. Esatto, però per innescarla tra i soldati dell'esercito nemico. Dice, mentre fanno in cularella. Esatto, esatto. È una cazzata. Sì, però se ci sta leggendo, sì. Ogni tanto gira, la vedo ogni tanto sta cosa. Che non gira, so, per, mi sembra poco, come dire, per quanto poco tu possa far leva su quali, non so quali. Molto divertente, ma credibile. Ecco, ti immagini. Ecco, la bomba al Viagra. La culo bomba. Cioè, tu tiri la bomba e praticamente loro. La bomba al Viagra. Esatto. Dobbiamo trombare, dobbiamo trombare. Si no, ma il problema non è tanto quello di scatenare, diciamo, l'istinto sessuale in sé, e quanto poi li fanno fare tra di loro, ti fanno, ecco, diventare comunque un istinto a prevalenza omosessuale, che non, sì, capisco, sì, come la bomba homo. Esatto, la homo bomba, la gender bomba, la gender bomba. E si scoprì che l'omosessualità non esisteva prima della seconda guerra mondiale, e si scoprì a che cosa serve la bomba H. Non serve per le emorroidi? Questa non la sapevo io. A quel punto tutto, sì, quadra, no? A furia di... E si ritorna all'appendice. Anche. Che sta lì, non la toccare. Non la stuzzichiamo, perché guarda... Ecco, vedi, se ci fossero le katane in giro, a quest'ora questa appendice te l'avevano già tolta. Anche perché tu non lo sai, perché non sei di Montrotondo, però diciamo che il nostro nosocomio locale non è che goda di una fama, cioè diciamo che... Magari entri per l'appendicite e esci con il gesso alla gamba destra, esatto. Ecco, cose così... Però che è sempre meglio di entrare per mettere un gesso e ti tolgono un appendicite, l'appendice. Sì, sì, beh, comunque, beh, insomma, sai, beh, cioè, non fanno bene entrambe le fenomeni. Sì, è un po' dopo, diciamo, l'overlook hotel. Aspetta, dice Pier G, penso che assaltare una trincea con un'erezione sia difficile, si impiglia nel filo spinato. No, ma in realtà l'approccio è il contrario, cioè questa bomba viene tirata sul nemico e poi si sopraffa il nemico mentre sta facendo, come dire, mentre stanno abusando gli uni degli altri. Ecco, il concetto dovrebbe essere questo. Ma è una bomba che produrrebbe anche abbrutimento, cioè non esiste una cosa del genere. No, ma dai, voglio dire, che sarebbe un'invenzione geniale, eh? No, anche perché la userebbero tuttora. Esatto. Cioè, se ci pensi, forse è Viagra. È una diretta, diciamo, diretta conseguenza di quelle bombe. Magari sono concentrate. La storia dice che il Viagra è nato per, diciamo, nasceva come farmaco. Era un farmaco per un vaso dilatatore. Hanno visto che aveva questo effetto. Oggettivamente è di là. Quanto dilata il Viagra? Dottore, ma senti, sto sempre come cazzo dritto io quando prendo questo cosa per cuore. Quale funziona? Però qua c'è il macello, che faccio? Che faccio? Ma la via pure io. Io sto bene, ma me la prendo. Beh, però funziona. Tante cose sono venute così. La penicillina. Sì. Esatto. Cos'altro viene in mente? Quanti usi del Viagra, volendo, eh? Quanti usi può avere il Viagra, secondo te? Non so. Che senso? C'è una bella erezione. Che ci fai con questa erezione? A parte, ovviamente, non so, ci sono usi che si possono. Usi alternativi del Viagra. Ah, pensavo all'erezione. Diteci in chat quali sono gli usi alternativi del Viagra. Quelli che fate abitualmente, non faremo nomi. Quindi potete dircelo in forma anonima. No, potrebbe anche essere. Che tipo magari... non cadere dal letto di notte. Se metti che uno cade dal letto. Ecco, o cioè... magari avete scoperto che mettere una pasticca di Viagra nell'aceto e poi ci pulite i vetri vengono perfetti, per dire. Non lo so, cioè adesso. Una cosa che. Che ecco, magari... domani tutti a comprare Viagra e fare esperimenti. Dai. Esatto, perché no? Intanto adesso le vendono su internet a pochi spicci, dai, cioè. Io l'ho messo nel fertilizzante per i gerani al posto dell'aspirina. Insomma, no, un tronco. Ma gerani dritti, una cosa assurda, sì. Che si ergono al cielo proprio, esatto, sti gerani. Quasi come un obelisco. Vabbè, cambiamo il argomento adesso. Sì, perché era un discorso un po' del cazzo. Un attimo... di ansia, perché infatti se poi mi si drizza l'appendicite. Lì si deve togliere, per forza. Ci dice Pier G che dalle sue parti si usa dire. Da noi si dice: è dura averlo molle, ma è più dura averlo duro e non sapere dove metterlo. Beh, sono d'accordo. Che è più dura non averlo duro. Mai. È più dura non averlo duro, mai. È ancora più dura. Beh, secondo me a quel punto scatta il fatalismo. Che, cioè... Vabbè, dai, ragazzi, non ci perdiamo d'animo. Chi la dura la vince. Esatto, disse Priapo. No, ma raccontiamo qualche altra cosa, dai. Sì, raccontarmi delle grosse paure di Trump. un attimo prima di passare a Trump, perché poi abbiamo la sigletta e facciamo, la mettiamo. Splendid. Però volevo dire, a proposito di questioni tra virgolette cliniche, visto che oggi stiamo facendo medicina 33, Marco, e visto che era una notizia che tu avevi già proposto per la scorsa stagione, non conosco il nome del posto, l'abbiamo ripescato. Allora, no, perché esiste questo posto che è tipo in Antartide, se non sbaglio, con in Artide. Adesso andiamo a recuperare la notizia, vengono, perché poi la condividiamo. Sono stati costruiti su un posto per brevemente poterci piantare la bandiera e dire: questo posto è mio, della mia grande nazione. E per far vedere che questo posto è mio, della mia grande nazione, ci faccio un villaggio con 100 abitanti. Adesso sto buttando lì. E questi 100 abitanti, che poi si danno al cambio di tanto in tanto, stanno lì. Io li pago pure per stare lì. Non vorrei ricazzare, ma c'è pure questa cosa. E però vanno in un posto dove, cioè, dire che è dimenticato da Dio è... Ma sai, se tu mi mandi in un posto di merda, allora, io in come realtà minimo non è né Artide né Antartide, perché si chiama Villa Las Estrellas e sta in una vetta cilena, credo. È l'insediamento cileno in Antartide, cioè hai ragione. Mia memoria funziona poco. Perché avevamo veramente la necessità di un insediamento cileno in Antartide. I cileni ne avevano un grande... Fondato durante la dittatura di Pinochet, guadagna, quindi, cioè non per i cileni, per Pino carità. Sì, e qual è il problema, quindi, Marco? Perché? Qual è la peculiarità di questo posto? Questa peculiarità è che, non essendoci i comfort, chiamiamoli comfort base della società moderna, tipo gli ospedali, se ti ammali di influenza, raffreddore, tosse, va bene. Ma se ti prende una cosa più grave che ti devi operare, tipo appendicite, tanto per, so un po' cazzi amari. Questo è un termine medico, mi sembra che l'ho detto, sì, bene. Esatto. Cazzi amari. Cazzi in culo. O sei bravo come il chirurgo che si auto-operò 2-3 anni fa, bravissimo, senza sveglia. Oddio, può anche più di questa cosa l'ho vista solo in Dottor House, non era finita molto bene. No, però lui invece è riuscito ad autooperarsi praticamente utilizzando uno specchio, e la bravura è stata gomma americana, quella è MacGyver, gomma americana è un soldatore. Esatto. E la cosa diciamo curiosa qual è? Che lui ha dovuto fare tutto l'intervento ovviamente senza anestesia, perché ovviamente se la doveva fare da solo, ma ovviamente essendo allo specchio tutto era riflesso, quindi doveva lavorare praticamente al contrario, subendo il dolore, cioè dai. Sì, no, assolutamente. Perché era praticamente una situazione d'emergenza. Lui era il medico. Un medico che si doveva togliere l'appendicite. Ecco, se tu fossi stato medico, te la saresti già tolta sta appendicite. Certo, ma non. Sta appendice, attenzione, sta appendice, non l'appendicite. L'appendicite è la patologia, esatto. Utilizzando la tecnica del sangue dei guaritori cileni. Esatto. Oh, guarda, una bella forbice. Ho porto un paio di forbici al nostro super ospite. Ci sono nato. Attento, non tagliare i fili. ci sono nato e me la voglio tenere più lungo possibile. Che non si abbandona. Il messaggio per il sociale: non abbandonate la vostra appendice. Allora, ragazzi, vogliamo fare un contest? Facciamo così, Marco. Io credo che il bello di Runtime è che è democratica. Lanciamo un sondaggio su tutti i gruppi. Se i nostri ascoltatori, mi rivolgo a voi, quindi incominciate a dirci, facciamo un exit poll, quindi cominciate a dirci la vostra qui nella chat in diretta di OGM, poi faremo il sondaggio sui gruppi e vi chiediamo: volete che Marco Gualdi si tolga l'appendicite, sì o no? Se vince il sì, però, Marco, vado a togliere subito. Ma qui dai, te la togliamo noi. Ah, vabbè, ok. Facciamo la diretta su YouTube in caso, cioè... Io ho fatto il corso di primo soccorso, sono abilitato, posso amputare. Primo soccorso c'è l'amputazione pure. Certo. Ah, ok. Proprio la prima cosa che ti spiegano è come amputare le cose. Quando se tu ti fai male, schiacci, sbatti la testa, ti amputano la testa. Esatto. Perfetto. Cazzo te ne fai della testa? C'è gente che ci sta senza testa. Scusa. Puoi stare senza problemi, senza pensieri e senza tumori al cervello. Esatto. Come abbiamo detto, ok, perfetto. Ottimo. Buona ciao Angelina, ciao. Hi Angelina. Angelina ci ascolta sempre, se capisse quello che diciamo. Va bene, comunque in ogni caso bel contest, è stupendo. Cioè, regaliamo qualche cosa stasera? No, niente. La tua appendice? Ah, è vero. No, quella è mia. mi dispiace no, perché qua le... guarda. Allora, facciamo così. Se proprio non la vuoi togliere sta appendice, dici tu cosa vuoi tolto e noi te la togliamo. Adesso ci penso. Va bene, dai. Ah, aspetta, Pier G ci dà un'indicazione che forse potrebbe essere vincente per Marco, perché ci dice: "Toglila. Io l'ho fatto a 18 anni, la parte divertente è stata l'infermiera che mi ha depilato." Sì, ma è già successo. Ecco, sappiate io che l'ho fatta a 6 e non c'era niente da depilare, quindi vabbè. Sappiate che pure io le faccio le tricotomie e sono cazzi vostri. Ecco, non sono un'infermiera, quindi vi dovrete accontentare quando dell'infermiere brutto e barbuto che viene vi spenna. Quando, allora, quando mi sono fatto operare all'ernia, che si è appendita, ovviamente. Ma lo sai che sei molto sfortunato, cioè te... sono 4 anni che ho molta sfortuna. E praticamente ho fatto il tuo corpo che sta cercando il tuo corpo che cambia nella forma e nel colore. Sta cercando di uscire dal mio corpo, il mio corpo. E ha molta paura. E ha molta paura. E praticamente io mi ero depilato tutto da solo a casa, perché in questo caso vieni già depilato, troppo sbattimento. Allora, perché me le devi fare fare a me queste cose? Vieni, c'è già ragione. Esatto. Io penso, ma io sono stato lì sotto la doccia, mi sono tolto tutto quanto. E il giorno dopo c'era l'infermiera, eh no, qui bisogna depilare. No, si è messa lì. Sì. A tagliare, non c'era un cazzo. Marco, io avrei colto il messaggio tra le righe. Secondo me tra le righe c'era molto. Non era molto granché. Vabbè, che c'entra? Cioè, il concetto... era un po' andante. Vabbè, magari però gli interessava l'articolo. Sì, a lei interessava probabilmente, però vabbè. Certe cose è meglio lasciarle alla fantasia. In questo caso. No, manca a farla apposta. Io circa 15 giorni fa ho dovuto fare una tricotomia a un paziente psichiatrico che non voleva stare a letto. Io c'avevo una mano su di lui praticamente per cercare di farlo stare a letto, l'altra mano praticamente c'avevo la lametta che andavo a spennare. Ma una bella tutto linguine perché... tipo quelle tosa pecore. No. Allora, piccola parentesi, diciamo seria, la tricotomia si sta un attimo andando ad abbandonare come pratica, a meno che non è proprio necessario. Perché sostanzialmente quando tu vai a rasare crei delle micro lesioni, quindi paradossalmente rendi il soggetto più sensibile ad eventuali infezioni perché crei delle micro lesioni. Ci sta. Ora abbiamo finito la parte un attimo più seria, parliamo un attimo delle cose ancora più serie. Dico, ho dovuto spinnare l'inguine di questa persona. E non è una bella cosa. Non è una bella cosa. Soprattutto se questa persona non lo vuole. Esatto, lo penso anche io. Credo che anche lui sia la persona in questione sia, come dire, ci siamo presi dei bastardi a non finire. Ero io e un'altra collega. Siete dei bastardi, andate via. Bastardi. Anzi, sono bastardi. Piergi ci sta raccontando la sua quasi peritonite nel frattempo, perché ci dice: sono stato operato d'urgenza, ricoverato per dolori addominali, operato dopo 3 ore. Sono cose che insomma dispiacciono, però era peggio se ti operavano dopo 4 ore, 5 ore, 6 ore. Dai, non ti operavano, però. Vediamo la era cosa peggio, buona. Era peggio se invece di operarti ti avessero fatto un'autopsia. Oppure fossi uscito con una gamba ingessata. E quello lì era molto brutta, insomma. Ma comunque, sempre parlando di tricotomia, ecco, mi sta venendo in mente quando ho dovuto fare una tricotomia perianale ad un paziente con una fistola anale. Vabbè, io guarda, stiamo andando proprio old, come dire. Ecco, mi è arrivato un calcio in testa, che ti dico soltanto questo. Ma poi c'è già la fistola, dette pure i peli, che te frega, ormai il danno è fatto. Cioè, ma infatti, ma tienitela sta fistola e basta, cioè dai. Altrimenti fiamma ossidrica. E via. Che voglio dire, cauterizza. Un rimedio medievale per certe cose. Ecco, scusa, ragioniamoci un attimo su questa cosa. Cauterizza, brucia i peli. Perché perdere altro tempo? Ma eliminiamo completamente tutta la zona. Cioè, perché limitarsi soltanto al dettaglio? Dico, facciamo come Angelina Jolie. Non si sa mai. Togliamo tutto il pezzo. Tutto l'anno? Tutto. Estraiamo tutto. Quindi è un anno gigante dopo. Esatto. Però non avrà problemi di evacuazione questa persona. Che momento di alta radiofonia, ragazzi. No, invece, voglio dire, siamo avanti. Raccontiamo qualche momento bello del tuo mestiere, qualcosa di gratificante. I congiungimenti a parte familiari. Il 27 allora, del mese, gli eventi gratificanti sono quando a un certo punto sono i pazienti e i parenti ti vengono a ringraziare. Quello è bello, oppure quando ti dicono grazie. Sei stato uno dei pochi che mi ha chiesto come sta. Perché purtroppo bisogna anche dire che spesso in questi contesti si lavora. Ma è un po' il lavoro che ti porta così, perché purtroppo le carenze di personale sono quello che sono, e quindi tu magari devi correre continuamente, c'hai tanti pazienti e devi dedicare poco tempo a ciascuno. Dovremmo un attimo ricordarci che magari chiedere anche semplicemente un come stai, se ti senti bene o altro. Sono cose che sono utili per il tuo lavoro, ma fanno anche sentire bene il paziente, cioè... è bello quando un paziente ti viene a dire: sa, lei è stato uno dei pochi che mi ha chiesto come sto. Oppure quando ti vengono a ringraziare prima di andarsene, o il paziente, o il parente del paziente, ecco. Sono queste le cose belle. La gratitudine, il riconoscimento oltre la professione, ma perché hanno visto che oltre al tuo lavoro ci hai messo anche qualcosa in più. Ho messo l'umanità. Esatto. L'umanità, ecco, quando riconoscono che hai fatto la cosa con umanità. E non soltanto perché il tuo mestiere, non soltanto perché dovevi andare lì a fare quello che dovevi fare. La famosa tricotomia con umanità. Esatto, soprattutto. Affetto con affetto, direbbe qualcuno. Ecco, come stanno i suoi peli? Esatto, come sta il mio culo, infermiere? Infatti mi ha dato un calcio. Bastardo. Bastardi. Ok, stavo parlando di. Vai avanti, Marco, perché mi accorgo che tutto sommato possiamo farne a meno. Possiamo, guarda, possiamo fare una sigla generica di attualità. La Lega non è razzista. Ottimisti, onestamente. Attualità. Se non bestemmio, guarda. No, attualità è che a me è già passata una decina di giorni, però è uscita questa notizia del nostro mitico DD, Donny Trump. DT. DD. DD. DD. Gli inglesi DD è qua, DD. C'è sempre DD. E qui dice che praticamente c'è una tecnologia moderna che è veramente una cosa abusata ed inutile, cioè la lampadina LED. La lampadina LED, che schifo, è uno schifo perché inquina tanto, consuma tanto, molto più dell'alogene. Si è risaputa questa cosa. Sì, decisamente. Ma soprattutto ha un piccolo difetto. Non è un difetto, è proprio che è fatta così. La luce LED lo rende arancione. Io lo so, ma io ho visto la luce LED arancione. Non me lo sarei mai creso, io avrei pensato a tutte altre cose, so, creme solari, autobronzanti, malattie santematiche. No, le luci a LED. Torniamo alla loggia. Tungsteno, alla lampadina. Bravo, tungsteno, filamento in tungsteno. Tanto sono bruciati uguali, Trump è un filamento di tungsteno, non so. Vabbè, non so se avete avuto modo di sentire, allora, a parte che stavolta è un pelo così dall'impeachment, e secondo me i tempi sono stati scelti non a caso, in modo che la bastonata arrivi poco prima della campagna elettorale dell'anno prossimo, così magari o lo tolgono di mezzo subito, cioè ti ha rotto il cazzo, vaffanculo, perché da qui poi la campagna elettorale è un altro mannetto, quant'è? Sì, però guarda che le procedure, ammesso e non concesso che venisse avviata la procedura di impeachment meno di 7-8 mesi prima che diventi... E poi comunque anche Clinton, se vi ricordate la sfangata, diciamo che l'impeachment diventi esecutivo, perché io lo vedo poco scusa. Probabile. Però basta un attimo paventare l'ipotesi di impeachment, certo. E soprattutto mettere il dubbio. Una persona normale la capirebbe. Ma stiamo parlando di americani. No, ma magari Trump, ecco. Soprattutto perché lui non capisce, cioè, ma lui, lui è americano. Ma lui è più americano di tanti altri. Ragazzi, non so se avete sentito, lui pare che praticamente ce l'abbia a morte col suo staff perché hanno una posizione troppo, come dire, troppo morbida, troppo democratica nei confronti degli immigrati messicani. È notizia, credo, che di si ieri sa che, sono in male. Che il presidente abbia cercato di imporre al suo staff di realizzare, ma dal giorno alla notte, quindi neanche a dire con una pianificazione, poi pare l'abbiano fatto desistere, però un giorno si è impuntato che entro il giorno successivo avrebbero dovuto costruire lungo tutto il perimetro del muro un fossato pieno d'acqua e di alligatori. Così uno si alza la mattina e spara minchiate. E non contento, pretendeva che i Marines ricevessero l'ordine di sparare alle gambe degli immigrati che tentavano di forzare il muro. Ma tu ti metti un attimo nella situazione di sto povero team della comunicazione che giornalmente deve rimediare a tutte le minchiate che spara lui giornalmente? Guarda, ma io mi metto... Cioè uno la mattina si alza, dice la minchiata, questi si guardano in faccia e dicono e ora sta cosa come la risolviamo? Ragazzi, io mi metto più nei panni di quello che ogni mattina deve convincerlo a prendere la pasticchina e secondo me non sempre ci riesce. Cioè, perché... c'è un Nino di Cita che sta lì, che ogni giorno... Nino? Si chiama Nino? Gli mette la mano sulla petto così e gli dice prendi la pasticchina altrimenti no, ti faccio placcare prendi la pasticchina. You're fucking bastard, prendi la pasticchina bastardo, prendi la la butta nella gola. Please, io sai che ho visto, secondo me quando gliela nascondono nel doppio cheeseburger no, fanno come coi gatti, gliela sparano in gola sotto il parrucchino, gliela mettono proprio. Ho visto come fanno coi gatti, i veterinari hanno delle pinzette simpatiche ricuvide, le prendo e la buttano giù in gola, così è fantastico, fanno così uguale. Ma ripeto, io credo che non sempre ci riescono, perché in certi giorni chiudono il naso, così lui deve aprire la bocca per forza. Ma secondo me respira col cu vabbè. Con la faccia. Esatto, con la, volevo dire con la faccia. Con la faccia, no, ragazzi, la situazione, la situazione di Trump secondo me è gravissima, perché davvero dice delle cose e pretende, come dire, poi come dire, di perorarle, poi essendo particolarmente cocente in confronto, Berlusconi era uno umile. Non ne fa passare. Era umile. Perché insomma, non è mai stato arancione. Altrimenti. Però dai, voglio dire. Però allora, il problema è che a Trump manca un hobby. Hobbit manca, cioè. Ma infatti, per Berlusconi c'ha tanti hobby, soprattutto uno. E soprattutto allora, lì ne parlavo con loro l'altro giorno in chat, riguardando una vecchia scena di. Non Bowling a Columbine, ma di il precedente di Fahrenheit 911. Io ho come il sospetto che, allora, in realtà non è un sospetto che Trump sia un altro donnaiolo, è risaputo, cioè le pornostar che conta nell'agendina sono infinite, però diciamo che ho avuto modo di interpretare, forse sbagliando, alcune frasi dette di lui in merito alla figlia di primo letto, Ivanka, anni fa, che un po' mi hanno spaventato. Però al di là di questo, secondo me il problema di Trump è che sì, forse non ha un hobby, ma quel hobby lì, cioè, tieni conto che Silvio si è fatto il mausoleo, Sì, lo so. Ecco, Trump non ce l'ha un mausoleo. Nel senso, se l'è proprio fatto? Penso ci ha invitato anche Putin a vederlo. Sta in Sardegna, nella villa in Sardegna. Ecco, Berlusconi c'è il gettone di Putin. Trump non ce l'ha il gettone di Putin. Non potrebbe dormirci, viene d'orticaria. Perché? Però secondo me Trump, allora, se è vero che Berlusconi aveva il vulcano artificiale nella villa, secondo me Trump ha la bombetta atomica, il fossato con gli alligatori artificiali. Ma quello fa, ma quello quasi ci riusciamo. Però nessuno c'ha il messicano che cerca di superarlo. Ah, forse ogni giorno gli portano un camion di messicani. Scaricano. Ma adesso provate a andare dall'altra parte, sarete liberi. Fa molto signor Barnes. Tipo Smithers, libera i cani. Libera gli alligatori. Ma tanto lui è un po' Smithers, ragazzi. Se non fosse che Smithers è. Tu dici Mr. Barnes. C'ha ragione Barnes. Diciamo che Barnes è un po' più presente. Sì, esatto. Trump è un po' più, diciamo, fuori dalla realtà, quindi per capire le cose. Però è più o meno il personaggio è quello, cioè, si adatta abbastanza bene. Io continuo a domandarmi come abbia fatto a essere, cioè, come abbia fatto a essere eletto, è evidente. Basta nascere quel piccolo, figlio del miliardario e via. È stato quel piccolo ruolo in Mamma ho perso l'aereo, secondo me. Dici, eh? Sì, secondo me sì. E poi sai che assomiglia a chi anche? Com'è che si chiamava? Tandem. Beef Tandem di Ritorno al Futuro? Esatto, è la stessa espressione intelligente. Esatto. Sì. Esatto. Beh, lui diventava miliardario. Grazie all'almanacco. Sì? L'almanacco che arriva dal futuro. E si trombava la mamma di Marti. La mamma di Marti, insomma, cioè. Vabbè. Diciamocelo che in tutte le decadi non è mai stata particolarmente, come dire, però è la mamma di Marti, è simbolica. E Marti giustamente si fa anche un po' del il culo, insomma. Tra l'altro rivedevo pochi giorni fa Michael J. Fox in una parte in una serie di avvocati, insomma. Mi spiace sempre quando lo vedo, si impegna in tutti i modi per cercare ancora, insomma, di stare fermo. Wow, che brutta, quanto sono cattivo, quanto sono strono cattivo, stronzo, bastardo. Mamma mia, proprio. No, e tra l'altro, ma vogliamo cercare di capire se abbiamo notizie da Pizziland, perché hai ragione, adesso lo chiamo subito. Perché? Continua pure a parlare. No, magari sta facendo, sta preparando altro contenuto, insomma, non so quanto è carino telefonargli in diretta, poi se ci vogliamo provare lo stesso. No, prima non lasciato, continua a lanciare messaggi comunque. Però vedo che chatta su Morti di Bestemmie, per sì, cui quindi praticamente c'è un cazzo da fare, allora. Sì, è già finito, quindi Pizzi, raggiungici, non ti mette di cazzare, vieni qua, dai, vieni a chiudere la trasmissione. Così andiamo, anche il co-working, perché insomma, così andiamo ad aprire qualche pub e ci andiamo a sbronzare a schifio. Anzi, come si dice proprio in Messina, a schifio. Mi spaccamo a merda. Si capisce, c'è bisogno di traduzioni strane. Ma tu sei qui perché, ovviamente, perché hai delle, diciamo, diciamo, perché sei venuto qui per partecipare alla puntata di GM. Esatto. Apposta, insomma. Poi c'è in concomitanza anche un'altra cosa, ma vabbè, ragazzi. No, stavo pensando quanto gli possa convenire bere come un disgraziato. Potrebbe questa vincere, sera, ecco. Potrebbe vincere, domani vince bene. Domani vince bene. Domani vince bene. È arrivato ubriaco a merda e secondo me, se vai già col filmato di una volta che l'hai fatto, ti prendono più sul serio. Quindi io, se vuoi, riprendo tutto, ti ridò le forbici. Posso dire, mi dica cosa ha fatto un po' di rilevante nella sua carriera. Ecco, c'era una persona paralitica, non sapevo un attimo come riportarla a camminare, gli ho preso sigarette e vino, gliel'ho messo su una mensola in alto, ho detto: se vuoi valle a prendere. Si è alzato primario di cardiochirurgia ortopedica. Beh, esatto, d'altra parte. No, però io su questa asportazione dell'appendice del Gualdi, io le tricotomie all'appendice. D'altra parte, scusa, no, se Tackleberry faceva le tricotomie col coltello da cucina, non vedo perché con un paio di forbici ben affilate non si possa fare un appendice quando abbiamo anche del personale qualificato. C'era una puntata dei Simpson dove facevano l'appendicite con un coltellino svizzero. Che poi prendevano l'appendice, la tiravano e scoppiava. Vabbè, ecco. Non serve molto di più. Cerchiamo di avere senso pratico. Un multiuso Victorinox, c'è tutto quello che serve. Che potrebbe esplodere. Lui tiene a Monterotondo. Perché se esplode l'appendice a Monterotondo. Considerando quello che Marco mangia e Marco beve, è possibile che esploda. Ecco, non è che, cioè, voglio dire. Non è. Però ecco, sei sicuro che vuoi che ti esploda dentro questo appendice? Sta tranquillo. Non la contieni tu, la contieni. La contengo io. In un campo antimateria. Un campo anti-appendice. Vabbè, però non vorrei che sfogasse in modi diversi, ecco, l'esplosione. Quello, ecco, non vorrei essere dietro di te in quel momento. Esatto, perché un importante attimo non essere dietro di me, ma non è ma manco che davanti te, sinceramente. Non c'è, ecco, c'ho sto dubbio se è meglio stare davanti te o di dietro lato, di te. Ecco, di lato. Siamo di lato. Di lato. Di lato non capisco. C'è da andare. Vabbè, direi che non è tardi, dobbiamo aspettare ancora almeno mezz'ora. No, Pizzi, vienici a prendere, dai, che siamo in attesa di bere. Non darla a bere a Pizzi. No, invece la risposta per due delle tre persone a questo tavolo la so, quindi ovviamente lo domando a Nino. Hai visto C'era una volta a Hollywood? No. Quindi non eviteremo delle, come dire, no, volevo fare. Intanto è arrivato Lobby Frontali che chiedeva se avessimo parlato del gemello buono del Gualdi. In realtà no, proprio perché aspettavamo che arrivassi anche tu, perché sarebbe stato giusto che fossi tu a consacrare Lobby in questo momento. Quindi ti chiederei qui in diretta, così in maniera molto improvvisata, di postare sulla chat della diretta il contributo che generosamente condiviso con noi l'altro giorno, in modo che possiamo gioire tutti insieme del fatto che tu, per esempio, Nino, sapevi che Marco ha un gemello? No, non però, lo sapevo. Però scusa, buono. Tu me lo dici così che è un gemello? Però buono, lui non ha problemi di appendice. Ah, ecco, però magari ne ha altri. Lui era la mia appendice. Ah, era una parte di te, era un gemello interno, sì. Esatto. Un gemello parassita. Bravo. O eri tu parassita suo? Non si sa. Vi parassivate uno parassita dell'altro. Esatto. che questo ti assomiglia. È un appendice che ha preso coscienza. Ah, ecco chi è. Ok, quindi nel frattempo anche Lobby Frontali l'ha condiviso nella chat della diretta. E premesso, magari qualcuno degli ascoltatori non ha mai visto Gualdi, però se state guardando il contributo da Quora che Lobby ci ha condiviso, vi assicuro che è come se stesse guardando questo è l'uomo momento, più Marco. Buono d'America questo. Esatto, voglio dire, il rapporto tra il gemello buono di Gualdi e Gualdi è un po' come dire che Madre Teresa è Gengis Khan, dove Gengis Khan è Marco. Sì, beh, allora, ricordiamo che questa persona ha aumentato il prezzo di un farmaco salvavita? Di un farmaco, non ricordo male, se non ricordo male, o per l'HIV o qualcosa del genere. HIV, se non mi sbaglio, è stato HIV. Non per l'HIV, è per una complicanza, una malattia, vabbè, comunque in ogni caso. Del 5555%. Senza per la toxoplasmosi, che ovviamente è una delle conseguenze più comuni dell'abbassamento dei tumori immunitari. Sì. Lo ha moltiplicato per 5555 volte, perché ci serve per arricchirsi a dismisura. Ecco, lui è ha fatto bene. Esatto, io se fossi stato lui, essendo un malvagio, avrei completamente tolto dal mercato il medicinale. Esatto. Lui invece lo ha lasciato, ma ha reso praticamente più difficile l'accesso a questo farmaco, perché te lo devi guadagnare, cazzo. Esatto, lei che poi ti cioè non è che quando arrivi tu vieni, ti curi, fai, dici. Sto cercando di capire la finalità della tua malvagità, se non ti crea un tornaconto. La malvagità è solo fine a se stessa. Ma infatti, mio caro Walter. Ma è un po' come il gioco, per tornare sempre alla stessa cosa. Alla fine cosa ti serve? Benzina, dinamite, sono tutte cose che costano poco, la benzina. Cioè lui quando parla la piramide di dollari. Esatto, e poi che cosa gli fa? Gli dà fuoco. Ma sì, fanculo ai soldi. Ma che cazzo mi servono sti soldi? Esatto, bravo. È così che si deve lavorare. Via, fuoco monte rotondo. Passando di appendice. Esatto. Se c'è qualche... Allora, parliamo un pochino di l'ultima fatica cinematografo di Quentino Tarantino. Tu non stai facendo il riassunto, vero? No. Devi sapere che Marco è in grado di fare i riassunti dei film che durano più del film intero. Ho detto. Se sono molto dettagliati, sì, perché il dettaglio fa perdere tempo. Se io devo descrivere la scena dura un secondo, ma se devo descriverla... Tu dovresti leggere L'albero e la foglia, che non so se sai cos'è. Non so leggerli, sono un albero e una foglia. È un estratto del... non mi ricordo se è nei racconti di Tom Bombadil, comunque è un'opera di Tolkien, in cui lui praticamente si sofferma pagine, pagine, pagine a descrivere una singola foglia. Ecco, tu potresti fare la stessa cosa. Ci vuole molta fantasia. Comunque è un film di molto tarantiniano, possiamo definire tarantiniano? C'era una volta l'Hollywood? Beh, Hollywood? Direi proprio di sì. Ma anche un po' coeniano. Qualcosina sì, è vero, si trasforma in un momento così, esatto. Degno di un film dei fratelli Coen, però come in tutti i casi dei film di Tarantino, forse questo più degli altri in assoluto, è strafarcito di citazioni e di omaggi al cinema, in particolare western anni 60, e alla televisione americana di quegli anni, che noi diciamo in Italia abbiamo visto molto di sfuggita, per cui Batman, in realtà qualche delle serie citate nel film, qualcuna è arrivata, ma oggi se tu non c'hai, Man c'hai from meno di Uncle, se c'hai meno di 30 Bonanza, 35 eccetera. Anni, se c'hai meno di 30 35 anni, che tu sia inglese, americano, cinese, penso che di quel film riconoscerai poco. Sì, ma tanto se tu hai meno di 30 35 anni non stai ascoltando questo programma, quindi no, il problema di, non si di può. Chi va a vedere questo film di Tarantino, cioè, è rivolto. Intanto buonanotte a zio che va a dormire. Notte. Sono tante citazioni, tante situazioni che tu non... Già noi che abbiamo poco più di 30 anni facciamo fatica a cogliere. Sì, io credo che la maggior parte... La Terra dei Giganti. Detto quanti, sinceramente... Cioè, tu hai mai visto La Terra dei Giganti? No. Ecco, io sì. Era agghiacciante. Era bellissimo. Cioè, questi omini piccolini che erano persone normali, infine in questo mondo alieno formato da umani, però giganti. C'era il SID, mi sembra, che era questo dipartimento che andava a cercare piccoli uomini, perché loro c'avevano la tecnologia, ma cioè, nel nostro mondo c'era la tecnologia più avanzata, c'era l'astronave. E quindi c'era questa astronave che era un'astronave giocattolo. Perché loro non riuscivano a costruire astronavi grandi, esatto, quanto un pianeta, ecco. Cioè c'era una piccola difficoltà a farla. Non ce la facevano. Tra l'altro, anche essendo tutto costruito in miniatura, secondo loro, c'era anche la possibilità di sfruttare la miniaturizzazione, perché loro praticamente avevano una tecnologia ancora più miniaturizzata, perché era una versione piccola di una tecnologia di esseri piccoli. Quindi c'era proprio una cosa terribile. E c'erano questi effetti speciali stupendi delle persone che acchiappavano gli omini piccoli, piccoli uomini, chiamati in realtà erano le mani della terra. E c'era sempre questa animazione della mano gigante di plastica che praticamente si chiudeva, e poi dopo nell'immagine successiva facevano vedere le due gambine che scalciavano scalciavano uscendo dalla parte inferiore delle mani dei vari cattivi, che poi era fatto senza voler essere grottesco. All'epoca i mezzi quindi cercavano vedendolo insomma, cioè, all'epoca il direttore degli effetti speciali dicevano genio, bravo. Tieni, te la regalo, esatto, smarmella anche un po' così. Però era bella serie, cioè bella. Hanno fatto una serie, una stagione. Forse. Guarda, no, questa è proprio saltata a più pari. Però effettivamente, ora al di là di quello, è un tripudio di citazioni quel film, tra personaggi realmente esistiti, anche della, diciamo, anche degli spaghetti western, di quella che è la, come dire, la fase degli anni 60 italiani e americani. Ci vorrebbe veramente, non so, un Morandini per poterli capire tutti. Non so, quello che ho detto è che sicuramente lo dovrò rivedere, perché non li conosciamo, e tanti saranno sfuggiti perché magari sono citazioni locandine sparse da qualche parte che tu non ci fai caso. Però effettivamente c'è tanta roba, forse pure troppo, nel senso che la gran parte del film è più una specie di ultra fanservisato. Io il film non l'ho visto sinceramente, però ecco, mi viene un attimo da pensare, ma riempire un film pieno di citazioni poi non diventa un qualcosa di fine a se stesso, nel senso, faccio un film soltanto per fare delle citazioni? Infatti, quello che cioè, ho pensato, il fine del film non è più raccontare una storia, esatto, ma è quello di far vedere guarda quanta roba mi sono visto, guarda quanta roba ci sto mettendo dentro. Diciamo che lui lo fa in un modo che, come dire, potenzialmente ti passa inosservato, nel senso che lui parte da un fatto di cronaca, giusto, dentro Hollywood, esatto, e quindi tutto, diciamo, quello che tutto per ruota, diciamo, intorno per logica, Hollywood è quello, è cioè, finzione, no, però tutto. Lui prende un fatto di cronaca realmente esistito, perché sullo sfondo di questa storia c'è la strage di Sharon Tate, la morte di Sharon Tate nella villa ad opera di Charles Manson e della famiglia Manson, no? Quindi diciamo, questo evento è, come dire, sullo sfondo, meglio, non è ancora successo, però le storie dei protagonisti del film per qualche motivo si incrociano con quelle della famiglia Manson. Si strusciano. Diciamo, poi si incrociano, poi si distrusciano. È un po' un attimo quando si dice che la storia non è soltanto una serie di eventi, ma è soltanto, ma è principalmente l'insieme delle storie personali di chi la storia poi la fa. Giustamente sì. Ci dice Lobby, non sono citazioni ma sono omaggi. Sì, diciamo che è corretta la, come dire, però la puntualizzazione. Però tu fai un film di 2 ore e 40, è durato sì, quasi di 3 ore. Di 2 ore so omaggi. E fan service. È un pochino sì, dai. No, non è neanche quello, perché io... chi allora del film mi sono detto, che cazzo sto vedendo? Cioè, me la sono fatta la domanda, che cosa sto vedendo? Cioè, è un film... dove tu, cioè, perché c'era questa cosa, lo sai che c'è, cioè, come a cosa mi sto preparando, perché questa è la domanda, c'è che questa ti cosa fa. Dell'omicidio di Sharon Tate comunque di Charles Manson ci sta, lo sai, ci vai già nel film, lo sai. Però non, questa cosa si struscia, tu non la vedi, non capisci. Allora, mai la in realtà, Marco, vedendo, c'è una quindi. Questione che probabilmente tanto te quanto io come spettatori siamo abbastanza, come dire, di pietra. E quindi certe sfumature particolarmente poetiche di questo film, come dire, ci rimbalzano un pochino sul groppone. Mentre invece tante altre persone che l'hanno visto, con le quali ho avuto modo di parlare, effettivamente sono andate completamente in estasi e lo hanno definito il miglior film di Tarantino. Io, per carità, non lo definirei il miglior film. Lo trovo tecnicamente ineccepibile sotto tanti punti di vista, però confesso che proprio non avendo, come dire, gli strumenti per cogliere tutti gli omaggi che c'erano, a un certo punto ho trovato troppo interlocutoria la parte centrale del racconto, che era questa sorta di mega preambolo poi ad un finale particolare, che però l'ho trovato un, si sarebbe potuta condensare in una ventina di minuti di meno, allora, voglio essere generoso. Che ci sono tante scene di spostamenti di gente che si sposta dal punto A dal punto B, che si guarda intorno, musica, che però alla fine quando te lo stai a vedere, se io te lo racconto dici mazza che palle, no, quando te lo vedi la bravura è quella di fartele passare bene, cioè comunque tu vedi questi momenti, Brad Pitt che guida, che va, sì, non sono semaforo, solo, non sono solo transizioni, fa passare una persona, però c'è sempre un senso in, sì, quello c'è che sempre succede. Un senso, ma te lo fa comunque passare bene, cioè non te noia. Però c'è quel punto del film in cui mi è successo con due o tre film dei Coen, che dice ma che cazzo sto a vedere, ma perché mi stai a raccontare sta storia, perché la sto a vedere, no vabbè, perché sto vedendo sta storia, cioè che cosa mi vuoi dire. Poi alla fine ti fa capire un po' tutto, però dopo la domanda è: ma c'era bisogno di fare 2 ore e 40 dei film? Sì, un pochino forse è questo che ci ha lasciato scorre, ripeto, è un film, sì, che scorre, che non è pesante. Posso avanzare un'ipotesi? Certo, allora, devi. Questo fermo restando che comunque il film non l'ho visto, quindi parlo con tutta l'ignoranza di questo mondo, però partendo un attimo dal presupposto che è stato detto che è un omaggio al cinema, perché non è invece un omaggio al cinema, però, ma perché invece non potrebbe essere un omaggio allo spettatore tipo di Tarantino, cioè al fan di Tarantino, cioè chi si aspetta un certo tipo di citazioni da Tarantino. Io Tarantino ti faccio un film solo per te, praticamente te lo inzuppo praticamente di citazioni, allora, è un omaggio a te. In realtà c'è una risposta alla tua domanda, però conterrebbe troppi spoiler. E allora mettiamola così: il film è palesemente un omaggio a delle cose in particolare, tant'è che c'è una riscrittura della realtà. Dopo averla capita, dopo averlo visto, il protagonista e cioè Brad Pitt e DiCaprio sono dei personaggi inventati. Sì, sì, assolutamente. Quindi, tra l'altro, entrambi molto bravi, ma DiCaprio in particolare è perché praticamente ha dovendo interpretare Dalton, cioè il protagonista, la figura reale tra virgolette. Poi Bounty Law, Dalton che fa Bounty, che scala nel personaggio. Poi certo. Dalton che fa un altro personaggio, non mi ricordo. Poi a un certo punto fa anche Steve McQueen in La Grande Fuga. No, com'era La Grande Fuga? Vabbè, comunque. Poi deve fare Dalton che interpreta il cattivo, però il cattivo del nuovo tipo di cinema, quando c'è anche l'improvvisazione, cioè fa delle cose, delle trasformazioni fantastiche. Il pretesto di questo film è raccontare le storie di due personaggi che sono questo Jack Dalton, che è un attore un po' in fase, all'inizio della fase decadente della sua carriera, un attore di successo a Hollywood che negli anni 60 deve cominciare ad accettare di uscire da quelli che sono i ruoli positivi e da protagonista per cominciare ad abbracciare ruoli soprattutto in televisione piuttosto che al cinema, da antagonista, da villain eccetera, per continuare a lavorare, perché la sua parabola, il suo momento positivo come stella dei film western in particolare si è esaurita, tant'è che poi andrà anche a lavorare in Italia e lì la citazione, gli omaggi agli spaghetti western, e assieme a lui c'è quest'altro personaggio che è sostanzialmente il suo autista, che è interpretato da Brad Pitt. No, scusa, il suo stuntman scusa, che però finisce per fare il suo autista, quindi il suo, una sorta di tuttofare che lo accompagna da che poi alla fine sono degli amici, grassi amici, sì, di fatto sono due amici in qualche modo, poi ci però sono, è un omaggio a quel cinema, soprattutto alla fine di quel cinema, perché infatti lì si parla, già si vede dal Dalton che fa un determinato tipo di personaggi e il Dalton che finisce con il cattivo, con un tipo di recitazione, con un tipo di cinema che è più moderno, per dire, già c'è, cioè, molta più enfasi nel fare il cattivo, molta più interpretazione, molta più improvvisazione in quello che fa, molto più realismo e crudezza. E cioè il nuovo cinema degli anni 70-80, che poi quello che è diventato il cinema moderno. C'è questa sorta di rappresentazione del passaggio, cioè la crisi del vecchio cinema, quindi la decadenza del vecchio cinema, fino alla rinascita del nuovo cinema moderno, diciamo così. C'è un po' di tutto dentro quel film. Pieno ovviamente di citazioni, perché ce deve buttare dentro. Poi insomma, quando lui normalmente lo fa nei suoi film, lo fa più o meno velatamente. Se tu immagini di devi fare un film dove si parla di cinema, proprio te spara in faccia. Un metafilm praticamente. Sì, più o meno sì. Direi proprio che il termine azzecca. Ci chiedeva Virginia nel frattempo, e io adesso so che insomma Tarantino negli anni ha detto delle cose, poi non si è mai capito bene se avesse intenzione di confermarle o meno. Piergi dice: questo dovrebbe essere il suo penultimo film, perché sì, lui aveva dichiarato che dopo 10 film si sarebbe ritirato, e già il fatto che li continua a numerare esplicitamente, perché questo è il nono film di Quentin Tarantino, dovrebbe sostenere il fatto che... Però a questo punto ho paura, perché se così fosse il suo ultimo film potrebbe essere uno Star Trek. O il seguito di Kill Bill, che si era vociferato. Si era vociferato che quando fosse cresciuta l'attrice che interpretava la figlia piccola di Black Mamba... Basta prenderne un'altra. Cioè. Va bene, nel frattempo però in realtà all'età... Poteva succedere qualsiasi cosa. Sarebbe potuto succedere. Poteva essere che andava a togliersi l'appendicite. Può succedere qualsiasi cosa. Però io poi mi domandavo, a proposito del questo famigerato progetto, anche confermato per certi versi, di Star Trek by Quentin Tarantino, potrebbe essere in qualche modo girato seguendo la stessa logica, diceva una volta ad Hollywood. Quindi cioè, sostanzialmente, pieno di citazioni alle serie vecchie. Un film su Star Trek che racconti Star Trek dal punto di vista attoriale, cioè sostanzialmente un film ambientato nel mondo della produzione di Star Trek piuttosto che in Star Trek, no? Secondo me avrebbe anche più senso e anche molto più interessante di un rifacimento di Star Trek in chiave tarantiniana. Esatto, cioè, io mi immagino una sorta di... DiCaprio che fa... James T. Kirk, cioè sarebbe bene, forse è un po' esagerato, però potrebbe essere. Gli potremmo far fare Gene Roddenberry, guarda, va, voilà. Roddenberry. Perché se cominciamo a parlare, di quello che è dietro le quinte, invece che fare un improbabile Star Trek in senso stretto tarantiniano... Che mi piacerebbe vedere comunque. Ho capito. Tutti di sangue, tutti i colori, bellissimo. L'arcobaleno di sangue. Eh sì, tanto abbiamo capito in Star Trek 6 che il sangue Klingon è rosa. Viola. Sì, oddio, fucsia. Quello è il bello, perché non è neanche viola. Però insomma... Invece un film in cui si raccontano, anche perché il contesto, poi se ci pensi, della TV di Star Trek, la serie classica, è esattamente cronologicamente lo stesso decennio, quindi seconda metà degli anni 60, dal 66 al 69 se non ricordo male, quindi insomma diventa abbastanza interessante questo tipo di chiave di lettura, chi può dirlo? Ragazzi, voi in chat vi siete un po' assopiti, perché insomma... ovviamente avete anche il timore dello spoiler, ma cosa ne pensate? Un film su Star Trek di Quentin Tarantino? About Star Trek. Un giorno faranno un film su Tarantino. Pensate se Tarantino facesse un film su Tarantino. Una cosa proprio come dire, l'Inception all'ennesima potenza proprio. In cui lui praticamente racconta se stesso, ma poi cambia qualcosa. Certo. No, ma anche tutta la parte che sta dietro, non tanto al film di Tarantino quanto a come nascono i film di Tarantino, agli aneddoti, o meglio ancora mi viene in mente ad esempio la valigetta potrebbe raccontare una volta per tutte secondo lui cosa c'era in quella valigetta. Secondo me queste cose se le porta nella tomba, dici? Anche perché se una volta che lo racconti dice finisce la magia, mito, certo. Secondo me c'erano caramelle. Secondo me c'era l'appendice. Di Gualdi. Esatto. Che crede di avercela. Quello di Tarantino. Chi può dire? Il maturo. Comunque, come dice Peppe Rizzard, è ovviamente a riferimento a Star Trek. Basta che non ci siano troppi lens flare e puttanate varie, va bene pure Tarantino. Una roba tipo Pulp Trek. Beh, considerando che sui Dance Flare J. Abrams si è molto ridimensionato, perché gli ha rotto il cazzo pure la moglie, secondo me. Cioè, ma potrebbe... è vera questa cosa, pure la moglie ha detto: guarda, su Star Trek non si capisce nulla, troppi Dance Flare. Gliel'ha detto pure lei e lui l'ha confessato questa cosa. Quindi se tu vedi gli ultimi film e le ultime cose, c'è stato molti molti meno Dance Flare. Vabbè, il discorso è che l'ultimo lavoro di JJ fu Guerre Stellari, dove ovviamente doveva utilizzare, diciamo, degli standard, non ce li poteva mettere perché da un punto di vista di fotografia sono tutti molto però canonici. Non è, lui lo ha detto che comunque sì, effettivamente ne ha abusato troppo. Ma non so, ma anche degli psicofarmaci, secondo me la sua era una metafora per dire. Ma lui ha abusato tanto della professione, lasciamo stare. Ha abusato anche della nostra pazienza. In realtà tutto è nato con lo Zoloft, secondo me. Però insomma, andiamo avanti. Anzi, voglio dire, anzi, non andiamo avanti. Andiamo perché io direi che fondamentalmente ce la siamo portata a casa anche questa sera. Sì, abbiamo raccontato tante belle cose. Però, ad esempio, di Guerre Stellari, l'ultima cosa simpatica è la risposta di. E poi ce ne andiamo. Di Mark Hamill a un tweet di Ivanka, la figlia Ivanka Trump. Ivanka Trump, che stava con una foto con un bambino vestito da Stormtrooper, e lui diceva, e lei affermava: la forza scorre, the force is strong in our family. E Mark Hamill gli ha risposto: hai scritto male, Freud, frode invece di forza. Poi c'è, vabbè, c'è gente che sa, ah, perché te la sei presa con un bambino? No, non se l'è presa con quelli dei genitori. Vabbè, comunque, bravo Mark, sempre grande Mark. Purtroppo ti sei proseguito per gli ultimi film di Guerre Stellari, però purtroppo evidentemente non ne volevi far meno, te ne sei pentito e lo sai anche tu, insomma. Ma secondo me non se l'aspettava. Devono portare la pagnotta tutti a casa, ragazzi. Permuto lo devono fare a tutti. Sì. Va bene, ragazzi, siamo giunti. Sono le 22:30, l'ora canonica per andarci a fare un cicchetto. Quindi non ci resta che salutare tutti gli amici che in chat ci hanno fatto compagnia questa sera, come al solito in ordine cronologico. Oh, aspetta un momento, non possiamo. Pier G, qualche serie TV da consigliare? Beh, allora, io non ho finito di vedere The Terror Infamy. Tanto da dire. Quindi un horror su Netflix? No, il secondo horror, perché c'è la prima stagione che è The Terror, che è basato sul romanzo, ed è molto bella vederla. C'è la parte soprannaturale che potremmo tranquillamente glissare, perché la serie è bella comunque a prescindere. Questa seconda stagione secondo me è molto inferiore alla prima, però tutto sommato è guardabile, ambientata durante il periodo del come si chiama, i campi di concentramento statunitensi che venivano fatti con i giapponesi quando riprendevano e buttavano dentro i campi, cioè, perché sennò poi fare i traditori, allora veniamo qua. Certo. Però vi trattiamo bene, bene bene, con i guanti bianchi proprio. Ed è ambientato in quell'ambiente lì, e quindi vi fa capire che cosa succedeva durante quella. Nino, tu hai qualcosa da consigliare agli ascoltatori che guardano molto Netflix, eccetera? Allora, ricollegandomi di nuovo alle space opera di cui parlavamo prima, The Expanse, secondo me quella che è una delle migliori space opera degli ultimi anni che è uscita. Che ricordiamoci è passata come produzione da Netflix a Prime. Amazon Prime. Ed anche The Terror, tutte e due le stagioni sono su Prime. Prime, ok, mi sono confuso, chiedo scusa. Io invece consiglio, se non avete già fatto, ragazzi, correte a vedere The Boys, perché è una serie di un'ignoranza clamorosa, ma in senso buono. È proprio un capolavoro del cinema che finalmente prende un po' in giro questi stereotipi sui film di supereroi che ci hanno anche un po' rotto le scatole. Precisamente. Bene, detto questo, quindi risalutiamo Pier G, Peppe Rizzard, Lobby Frontali, Zio, Davide Gatti e tutti gli altri che ci hanno pazientemente ascoltato questa sera dalle 21 alle 22:30, sempre qui su Ottimisti Genericamente Mortificati, dove con me c'erano Marco Gualdi, ciao, il nostro ascoltatore zero in omicida, ciao a tutti, e il sottoscritto Walter Sbano, che vi dà appuntamento ad una qualche puntata di ARG in un qualche momento del prossimo futuro, e ovviamente a Ottimisti Genericamente Mortificati mercoledì prossimo, sempre su Runtime Radio. Ciao. Ciao. Tenetevi care le vostre appendici, ne avete soltanto una. Non abbandonate. Uno.